mi sveglio o sonno. Però, buongiorno. Ho fatto un sogno di quelli porno. Mi alzo in piedi, mi corro intorno. Mi sciacquo la faccia, se no mi addormo. Oh yeah. C'è Gigi D'Agostino. Dai un po'. L'artiste Gigi D'Agostino, Le Nouvelle Martel. Il cammino di Gigi D'Agostino, il tuo peperoncino. I giorni grigi, scrivi a Gigi. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Thank you.

sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Gigi D'Agostino, un altro modo di fare musica.

stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Officina emotiva. Sabato 24 febbraio 2007. Ore 22. Officina emotiva. Con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale. Presso la discoteca La Fattoria, Brescia. Fammi una mixata, va. Sì, ho capito. È il cammino del Gigi D'Agostino. Volete scrivermi? 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Attraverso questo cammino potete lanciare il vostro pensierino. più magico. Depresso. Rimani connesso. Ogni giorno ti scassa un pochino. Dai un poco sta cassa. Il cammino di Gigi D'Agostino. Questo programma musical mental, ole, me gusta mucho macho. E che cacho. M2O musica allo stato puro. Gigi D'Agostino. Musica che unisce.

Ci sentiamo domani. Grazie.